the human race. All that it has given me is a longing for people and things I could never afford. Our beauty. Now that the walls of Troy are tumbling down, and poor Oscar Wilde's verdict is out, and the whole diamond's up for auction. What about Michael Jackson? Smoking again in the morning, looking at beauty. Look at me. You who did line the apple once so furtive, I fear you line the world we see, filled with goodness only hidden by beauty. You make me sad. You make me sad. You make me sad. What is it? Dewey, hey, it's the first of the month, and, I would like your share of the rent now, please. Oh, man, you know I don't have it. You wake me up for that? Come on. Yeah. Sorry. Thank you. Anthony, quello di Anthony and the Johnsons, ovviamente è diventato uno degli ospiti più richiesti del momento, ve ne accorgete, anche ascoltando Eclettica o semplicemente leggendo nelle playlist. Per esempio quest'oggi abbiamo aperto con l'album del ritorno di Linda Thompson, dove c'era appunto la voce di Anthony ad accompagnarla. Poi da Baltimore a Dan Deacon, uno degli artisti secondo me più interessanti della scena elettronica dell'ultimo periodo, che quindi sta comparendo da un certo periodo a questa parte all'interno di Eclettica. Invece l'ennesimo nome nuovo che arriva dall'Inghilterra è quello che costituisce il prossimo pezzo. Sono arrivati all'esordio dopo una manciata di singoli ed un EP con un album dal titolo Fractured Life. Loro si chiamano Air Traffic e questa è Charlotte. Da bambini, Hassan ed io ci arrampicavamo su uno dei pioppi lungo il vialetto che portava a casa mia e da lassù infastidivamo i vicini riflettendo la luce del sole in un frammento di specchio. Ci sedevamo uno di fronte all'altro, su un ramo, le gambe nude a penzoloni e mangiavamo more di gelso e castagni, di cui avevamo sempre le tasche piene. Usavamo il frammento di specchio a turno, ci tiravamo le more e ridevamo come matti. Vedo ancora i raggi di sole che filtrano attraverso il fogliame, illuminando il viso di Hassan, perfettamente tondo, come quello di una bambola cinese di legno, con il naso largo e piatto, gli occhi a mandorla stretti come una foglia di bambù, giallo oro, verdi o azzurri come zaffiri, a seconda della luce. Ricordo le piccole orecchie dall'attaccatura bassa e il mento appuntito, che sembrava un'appendice carnosa aggiunta al viso in un secondo momento, e quel labbro spezzato, un errore del fabbricante di bambole, cui forse era sfuggito lo scalpello per stanchezza o disattenzione. Talvolta, mentre ce ne stavamo nascosti sugli alberi, proponevo ad Hassan di estrarre la sua fionda e mitragliare di castagne il pastore tedesco del nostro vicino. Lui non voleva mai, ma se io glielo chiedevo veramente, cedeva. Non mi avrebbe mai rifiutato nulla e la sua fionda era infallibile. Quando suo padre Ali ci scopriva, si arrabbiava, per quanto si potesse arrabbiare una persona gentile come lui, e minacciandoci con il dito ci faceva scendere dall'albero. Poi ci requisiva lo specchio e ci ripeteva quello che sua madre diceva a lui quando era piccolo, che anche il diavolo usa gli specchi per distrarre i musulmani dalla preghiera. E ride mentre lo fa, aggiungeva sempre, guardando severamente il figlio. Sì, padre, balbettava Hassan con gli occhi a terra. Ma non mi ha mai tradito. Non ha mai confessato che tanto lo specchio quanto le castagne erano idee mie. Questo era ancora il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. I mean, you owe me a lot of money as it is. Yeah, try $2,200. Okay. You guys, the band is about to hit it big time. We're gonna win Battle of the Bands, and when I'm rolling in the Benjamins, I will throw you and your dog a bone. Good night. People saving whales and giving your thanks to our seas. My respect to the ones in the forest standing up for our old trees, them giving food to the hungry, hope